che felicità. Sensazione unica perché ho fatto gol. Hai mai provato te a fare un gol? Tutto è fantastico, tutto è magico. E la gente che esulta solo per te. Basta quel momento per dire che, per dire che sono felice anch'io, sono importante anch'io, sono un dio. E anche se in verità non lo sei, ma che ti importa, dai? Hai fatto gol. In fondo la vita è fare gol. E quando ti riesce, hai fatto 100. A volte trovi un po' più di difficoltà, ma poi se ci riesci, hai fatto gol. Hai fatto gol, e se hai fatto gol, com'è bello guardarsi il replay. Dai, corri a casa e pigia il play. Se invece non l'hai fatto e per quel giorno hai fatto un autogol, forza e coraggio che farai gol. Ho fatto gol e il mondo mi appartiene. Perché ho fatto gol. Hai mai provato te a fare un gol? Tutto è un brivido, tutto è fantastico. E quella ragazza laggiù esulta solo per te. Basta quel momento per dire che, per dire che ti ho fatto felice anch'io, sono un grande anch'io, sono un dio. E anche se in verità non lo sei, goditi il momento, dai, hai fatto gol. In fondo la vita è fare gol. E quando gli hai dato un senso. A volte trovi un po' più di difficoltà, poi, se ci riesci, hai fatto gol. Hai fatto gol, e se hai fatto gol, com'è bello guardarsi le play. Dai, corri a casa e fatti un caffè. Se invece non l'hai fatto e per quel giorno hai fatto un autogol, forza e coraggio che farai gol. Hai fatto gol e se hai fatto gol, com'è bello guardarsi il replay. Dai, corri a casa e pigia il play. Se invece non l'hai fatto e per quel giorno hai fatto un autogol, forza e coraggio che farai gol.